Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Via libera dunque dell'Eurogruppo ai nuovi aiuti per Atene. In totale saranno 8,3 miliardi di euro, di cui 6,3 a fine aprile, uno a giugno, l'altro a luglio. L'ok arriva dopo che l'Eurogruppo si è detto soddisfatto delle misure quali la liberalizzazione di servizi e professioni e dell'energia. In mezzo a rigide misure di sicurezza si è aperta infatti oggi ad Atene la due giorni di lavori dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. Per motivi di sicurezza vietate manifestazioni nel centro della capitale greca, e le prime battute il commissario Rehn le ha dedicate però anche alla situazione più in generale in Europa. Allora, la ripresa sta guadagnando terreno, ma allo stesso tempo preoccupa il periodo di bassa inflazione. Lo sentite nella sostanza. Sono state queste le prime parole del commissario degli affari economici dell'Unione Europea, ma ci sono anche molti altri temi. Allora andiamo ad Atene da Beda Romano. Sì, buongiorno. Si è parlato fondamentalmente di Grecia quest'oggi perché, come avete detto voi, il paese ha ricevuto e riceverà nei prossimi mesi altri 8 miliardi più o meno di aiuti. La cosa interessante sulla Grecia è stato l'avvertimento del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che nonostante questo passaggio abbastanza importante per la Grecia ha richiamato l'establishment greco su due fronti, ha avvertito il paese a non mettere a repentaglio l'aggiustamento dei conti pubblici che è stato effettuato finora, e poi ha chiesto l'adozione piena delle riforme economiche, come dire che nei due campi, sia in quello di bilancio che in quello economico, il rischio è che vi siano per certi versi slittamenti da parte del governo greco. Si parlerà nelle prossime ore anche evidentemente di Portogallo, perché è un altro paese e sotto programma in crisi che deve continuare il risanamento dei conti, ma che dovrebbe uscire dal programma in maggio, e si parlerà di Francia. La Francia evidentemente non è in agenda di questo Eurogruppo Ecofin, ma il cambio di governo a Parigi tiene banco inevitabilmente e si teme che a un certo punto la Francia e il presidente Hollande chieda nuovamente all'Europa una nuova scadenza per il risanamento dei conti pubblici, e oggi la Commissione ha già ricordato che di slittamento dei termini la Francia ha già goduto due volte, come dire che a questo punto il Paese deve rimettere ordine nei conti pubblici e riportare il deficit. E la terza pare molto difficile. Esattamente. E grazie a Beda Romano, naturalmente torneremo ad Atene nel corso della giornata. Intanto una nota positiva per l'Europa, seppure in termini percentuali minima, arriva dai dati sulla disoccupazione giovanile, è in lieve calo a febbraio, nei 18 paesi dell'Eurozona è passata dal 23,6 al 23,5%, in Italia dal 42,4 al 42,3%, dati davvero minimali segnalati oggi da Eurostat, che confermano comunque che l'Italia resta nell'Unione Europea il paese con i dati peggiori dopo la Spagna. Procedure più semplici e veloci per ottenere un visto per venire a fare turismo in Europa. Intanto il pacchetto presentato dalla Commissione Europea per stimolare l'economia del settore, 130 miliardi di euro in più di spesa nell'arco di 5 anni, 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro, gli obiettivi che la Commissione si è data. A presentare questa mattina i commissari Cecilia Malmström e Antonio Tajani, che ha commentato così al microfono di Valentina Furlanetto. Ma è un beneficio enorme il cambiamento delle regole dei visti. Diciamo in cifre, ogni anno 1,5 miliardi, 2 di euro in più e circa 30.000 posti di lavoro in più. Questa è la cifra che riguarda l'Italia. Se andiamo a guardare l'Europa, dobbiamo dire che la permanenza delle regole attuali ci ha fatto perdere 10 milioni di turisti, e con le regole attuali da qui al 2050 ne perderemo 50 milioni di turisti, e con un mancato incasso di 70 miliardi in Europa e 250.000 posti di lavoro potenziali persi ogni anno. Quindi era indispensabile avviare questa riforma. Al momento questa però è ancora una proposta della Commissione. Il Consiglio, cioè gli Stati membri e il Parlamento dovranno adottare. Io mi auguro che la Presidenza italiana faccia faccia tutto il possibile per far approvare il dossier prima dell'Expo 2015, che è un vero moltiplicatore di presenze turistiche in Italia ma in tutta Europa. Naturalmente questa riforma porterà anche un incremento delle presenze di turismo religioso, perché ecco, quando penso ai visti multipli pensiamo anche in quella direzione. Per il momento ci fermiamo qui, ma vi ricordo, l'Europa vi aspetta a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.